11. E marrotondo di quella testa, tonda tonda di madre, tonda pancia che sta in un pugno, in un cavo di mano a conca, sta nel concavo in cavo nel quale porto conclamati occhi, i violetti nel pugno. Matrona testa madornale, che suprema t'appisoli su guanciali di vario conio, ridi a lungo, ridi tu per sempre, ridi per scansare quel nero sonno, quel sonno insano, quel sonno matriarcale, quell'altro sonno.